Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. La banda Bonno di Bernard Thomas, capitolo settimo. Da Montgeron a Chantilly, molto sangue per molto oro. Da Bec Plage a Lozère, le spie hanno fortuna. Raymond la scienza tradito dall'amore. 24 marzo, ore 17. A piccoli passi tranquilli, un turista elegante passeggia per i quartieri alti, ammirando le vetrine, le belle facciate degli edifici, curioso di ogni cosa. Un innamorato di Parigi, senza dubbio, o un cultore di vecchie pietre, o ancora un borghese alla ricerca di una casa da comprare. Pare soffermarsi in modo particolare nelle adiacenze dei palazzi privati con garage. Passando, lancia sguardi insidiosi alle sbarre di ferro, nuove di zecca e ai sistemi di sicurezza ultramoderni di cui sono muniti, non senza salutare con cortesia le guardie armate che li sorvegliano. Decisamente i proprietari sono diventati persone prudenti, avevano certo appreso dai giornali delle imprese della banda Bonneau. Dopo una lunga passeggiata a Hauteuil e Passy, il signore torna verso il centro per l'Avenue des Champs-Élysées. Nei pressi di Round Point si attarda per un certo tempo davanti al garage Lost, concessionario di Dion Bouton, al numero 23, guardando visibilmente ammirato le vetture fiammanti lì esposte. In quel momento tre persone appaiono sulla soglia. L'uomo si accorge che la stringa della scarpa è rotta e si china a fare un nodo. «Allora, intesi? Così, Monsieur Lost?» dice uno dei signori. «Verrò a prendere la macchina con Matillet domani mattina alle 7. Il padrone ci attende il 26 a Cap Ferrat. Penso che ce la faremo. Vi garantisco la vettura, Monsieur Cherizol», dice il garagista. «Un motore a due blocchi, con trasmissione trasversale della pompa ad acqua, 14 cavalli e quanto c'è di meglio». «Lo conosco», dice il terzo uomo, Matillet, l'autista. «Che strada farete?» «Melun, Fontainebleau, Lione è la strada migliore», dice Matillet. Un sorriso furtivo rischiara il volto del passante. Senza dubbio pensa che è un'epoca felice, quella in cui i ricchissimi maniaci possono farsi mandare, sostenendo spese fortissime, un'automobile fino alla Costa Azzurra. Guarda la vettura di cui parlavano i tre uomini, una limousine semidecappottabile, blu scuro, ravvivata da cromature dorate, immatricolata 179 WI. Poi riprende tranquillamente la passeggiata. . 25 marzo, l'una del mattino. Sei uomini escono silenziosamente da Parigi per la porta di Bensì, vanno in direzione di Alfortville, poi verso Villeneuve-Saint-Georges, Montgeron, Brunoy, lungo la nazionale 5. Sono Jules Bonneau, Raymond Calemin, Octave Garnier, Elie Monnier, René Vallée, André Soudy. Quest'ultimo si trascina con fatica. Ogni 2-3 chilometri gli altri devono fermarsi ad aspettarlo. A tratti un accesso di tosse lo piega in due e per alcuni secondi resta senza respiro. A capo del corteo Vallée, Raymond e Bonneau discutono sulla tattica da adottare. Esaminano tutte le eventualità. Alle 5 del mattino arrivano infine al luogo prescelto, il chilometro 25, a poche centinaia di metri dal punto in cui venne attaccato il Corriere di Lione del 1796. Un puro caso, naturalmente, ma i giornalisti colti seppero approfittarne. Si riuniscono in un bosco ceduo, un ultimo consiglio di guerra, poi si installano in una capanna di cantoniere e sonnecchiano un po'. Alle 7 Monnier va ad appostarsi in vedetta, 200 metri più avanti. Soudy e Vallée Restano nella capanna. Jules, Raymond e Octave si nascondono nei fossati ai due lati della nazionale. Nei campi appaiono di quando in quando dei contadini. Con tiri di cavalli, altri ancora piantano patate. Alle 8, dopo 60 lunghi minuti di attesa, nella fresca alba, Monnier fischia. Effettivamente si ode uno scoppiettio, il primo del mattino. Non può che trattarsi della loro macchina, quella di Déruger, guidata da Matillet e Cherisolt. I turisti nel 1912 non sono molto numerosi. Jules si pone nel bel mezzo della strada e agita il fazzoletto. L'autista sorpreso frena bruscamente, certamente pensando che la strada più avanti sia bloccata. In effetti c'è un rullo compressore sul ciglio del bosco. Octave e Raymond balzano ciascuno su un predellino, impugnano i revolver. «Scendete», ordina Raymond, ma Matillet fa un gesto infelice. Invece di alzare le mani, le abbassa. Si ha subito la carneficina. Octave e Raymond si ritengono in stato di legittima difesa. Premono il grilletto, sparano, sparano, sparano ancora, fino a che nessuno si muove più. Niente mezze misure. Matillet si affloscia sul volante, la gola e il ventre squarciati dai proiettili. Cerisol barcolla fino a un mucchio di sassi su cui si abbatte, ancora abbastanza in sé da poter fare il morto. Per miracolo, è stato colpito solo alle mani. «Basta, per Dio!» grida Bonneau. Ma dopo tutto, che se ne frega? Asciuga il sangue, schizzato sul volante e sui sedili, e si siede. Monnier corre a raggiungerli. Falais e Soudé spuntano dalla capanna. Mentre tutti si pigiano tra i bagagli, il nuovo autista fa dietro front e riprende la strada di Parigi. I contadini accorrono e lanciano esclamazioni. Due tali, i signori Gervais e Ponceau, issano il ferito e il moribondo su una carretta. Un terzo monta direttamente a cavallo e galoppa fino a Montgeron, dove tutto ansimante avvisa il sindaco. Questi stacca il ricevitore, gira la manovella, si spazientisce, dice chi è, sbraita. Tutto inutile. La tradizione francese esige che l'interurbana funzioni male. Riuscirà ad avere la prefettura di polizia solo dopo un'ora. La banda Bonneau è già lontana. Essa fa il giro di Parigi, scegliendo strade di periferia poco frequentate, seguendo sempre lo stesso principio, apparire in un posto in cui non la si attende. Sono apparsi a sud, ora colpiranno a nord. A bordo tutti cantano a squarciagola. «Sapete che andiamo a morire? Viva la morte!» esclama Raymond. Distribuisce a tutti i soci del cianuro fornito poco prima da David. Meglio crepare che farsi prendere. Niente feriti, niente prigionieri, o cadaveri o uomini liberi. Non c'è via di mezzo. Viva Raymond, viva l'anarchia, urlano. Alle 10:30 la Dion Bouton si ferma in pieno centro di Chantilly, in Place de l'Hospice de Condé, all'incrocio di Rue de Creil, Rue de Paris e Rue de Connétable, di fronte alla succursale della Société Générale. La piazza nereggia di folla, appassionati di ippica, commercianti, casalinghi, allevatori con i loro cavalli. Comparse. Non li vedono, non li interessano. Octave salta giù come un diavolo, il revolver in pugno. Avanti, grida. Raymond, Valet e Monnier lo seguono. Jules, imperturbabile, estrae una rivoltella ma resta al volante. Il trio entra in tromba nella banca. Signori, non una parola, esclama teatralmente Raymond. Ma è già troppo tardi. Gli impiegati, che non hanno l'abitudine dell'hold up, che non ne hanno mai sentito parlare, tentano di reagire. Partono proiettili come al tirassegno. Roger Gilbert, 16 anni, aiuto contabile, si è lasciato cadere a terra, dietro lo scrittoio, e tenta di strisciare verso una porta. Ferito alla spalla, Trinquet, il cassiere, affronta Octave, una palla in piena fronte. Raymond Legendre, 17 anni, è colpito alla tempia e al cuore. Un quarto, Courbe, che era entrato nella banca contemporaneamente ai banditi, ha il tempo di chiudere la porta e fuggire sotto le raffiche. C'è anche un cliente, in un angolo, che si morde le dita, ma non c'è tempo di occuparsene. Fuori la folla si accalca al rumore degli spari. La carabina, Piccolo, ordina con calma Bonneau. Sudì prende un Winchester accanto a lui e va ad appostarsi di corsa in mezzo alla piazza. Datevela a gambe, dice imbracciando il fucile. Datevela a gambe o vi sparo. Simili a manichini di cera, impietriti di paura e di stupore, i passanti si immobilizzano. Tab salta oltre lo scrittoio e infila alla rinfusa in un sacco pacchetti di biglietti e di rotoli d'oro che fa cadere dalla cassa e che porta via dalla cassaforte aperta. Dà il tutto a Valet, prende ancora un portafoglio. Andiamocene, dice. Sudì copre fino all'ultimo la loro ritirata. Raymond, Octave e Monnier si riparano all'interno. Valet salta sul predellino e spara a caso sulla folla. Jules mette la prima. Sudì si slancia a sua volta e manca il predellino. Octave sporge il braccio. Lo afferra di precisione e lo tira all'interno, dove cade svenuto. Valet ha già scaricato 3 Browning. Raymond spara ancora su un carrettiere che pretende di mettere il carretto di traverso nella strada. Jules affronta tutta birra l'Avenue de la Gare, imbocca su 2 ruote la curva dell'Avenue de la Morlaie e punta su Parigi a tutta velocità. Ma questa volta il telefono funziona. I gendarmi di Lusarche sono avvisati 1 minuto prima del passaggio della vettura. Il gendarme Defresne esce di caserma nel momento stesso in cui spunta la Dion-Bouton. Salta su una bici e inizia l'inseguimento. Il maresciallo di stanza Louvaux fa a tempo a balzare sul suo cavallo che lancia il gran galoppo verso Parigi. Raggiunge il collega, vede una macchina ferma, ferma il cavallo e chiama il proprietario che non vuole saperne. Sua moglie singhiozza. Siamo onesti, commercianti, siamo di Douzy. Louvaux esige, ordina, in nome della legge, in nome della Francia, in nome di un cazzotto in faccia. La torpedo infine parte. A Champlâtreux il maresciallo scende a informarsi sulla direzione presa dai banditi, approfittando dell'inaspettata fortuna e dando solo ascolto al loro coraggio. La coppia di bottegai se ne va senza salutare. 8 chilometri più in là, a Écouen, avviene pressappoco lo stesso. I gendarmi escono come formiche disturbate nel loro lavoro, prendono chi ha una bicicletta, chi un cavallo e desistono. Nella Dion-Bouton si spartisce il bottino, 35.000 franchi in banconote, 10.000 in oro, 4.000 in argento, questa volta nemmeno un titolo. Non c'è di che rivaleggiare con Rothschild, ma sì di che trascorrere giorni felici. Ci si abbraccia, si trema d'emozione a palpare i bigliettoni, i primi dopo tanto tempo. A Saint-Denis, senza togliere il piede dall'acceleratore, si volta a destra, verso Villeneuve-la-Garenne, Bois, Colombes, poi a sinistra verso Asnières. Dei ciclisti pazzi di terrore per essere stati sfiorati dall'ordigno di morte danno loro la caccia, superando un ponte. Jules scorge all'improvviso un treno suburbano che arriva in stazione, frena bruscamente, sfonda una palizzata, scendono scavalcando un reticolato, raggiungono il binario, corrono a perdifiato e prendono il treno in corsa. Il capostazione li vede, li trova sospetti e cerca a sua volta di telefonare. Per avere Parigi dovrà attendere 35 minuti. I 6 amici sono già scomparsi in mezzo alla folla della capitale quando viene eseguito l'ordine di Juin di occupare militarmente le stazioni e di sorvegliare le porte di Parigi. Non giubila, cosa non avrebbero potuto fare un centinaio di uomini dotati di una dacia come la loro. Ma per il momento sono ricchi, hanno bisogno di riposo, si preparano. Questo li perderà. Lasciano così per la prima volta l'offensiva al nemico. Dopo la doppietta di Montgeron e di Chantilly, un vento di terrore soffia sulla Francia. Non si parlava che di loro. Le Matin uscì col titolo, la pagina più incredibile della storia del crimine. Nelle vie dei quartieri poveri i bambini avevano sostituito il gioco del mondo con quello della banda Bonneau, in cui i gendarmi avevano sempre la peggio. A un direttore di sala cinematografica che aveva promesso agli spettatori un film che avrebbe ricostruito le imprese della banda, vennero tolti pubblicamente i calzoni per aver fatto precedere lo stimolante documento da un insipido film intitolato La brava gente. A Pigalle, nella mala, i capoccia non avevano più alcuna autorità sulle mezze calzette che volevano far la parte di Garnier. Franklin Bouillon, deputato del distretto di Montgeron, fece un'interpellanza alla Camera. Che si pensava di fare per garantire la sicurezza dei cittadini? La prefettura di polizia dilaniata da dissensi interni. La mala. Il capo e il vicecapo della Sûreté sono in disaccordo. Questo stato di anarchia non può durare. Esigo l'assicurazione che l'ordine sia ristabilito sin da domani alla prefettura di polizia. Che rispose chiedendo ai deputati 800.000 franchi per comprare 8 automobili alla polizia e fornirla di armi automatiche. Da parte sua, Le Pen reclamò dal Consiglio municipale la creazione di una brigata criminale e la votazione di crediti supplementari per gli informatori. Le stazioni, le porte, le frontiere vennero sorvegliate militarmente. Con un decreto furono mobilitati rinforzi di gendarmeria. La Société Générale offrì un nuovo premio di 100.000 franchi. Lo stesso giorno, scrive Victor Meyrick, che ha vissuto il periodo, si segnalò Garnier a Rouen e a Dunkerque e Bonnot a Corbeil. Poi ci fu una nuova infornata di arresti. Alcuni sventurati furono linciati dalla folla, che ogni volta credeva di aver agguantato un colpevole, mentre la polizia, con una sfortuna incredibile, seguiva solo piste false. È inimmaginabile il numero di denunce, di offerte di servizi, di testimonianze incredibili che si verificarono in quel periodo. Si avvistavano su tutte le strade auto sospette. Guichard, sopraffatto, riceveva fino a 700 lettere al giorno. Una signora lo consigliò di far dire delle preghiere. Una sonnambula si impegnava a dire ogni cosa, previo ovviamente un onesto compenso. Poi uno spirito inventivo propose di distribuire bombe a tutti gli impiegati di banca per permettere loro di difendersi. La Société Générale, più pratica, preferì consegnare pistole ai suoi galoppini, che per la prima volta vennero armati. Un altro preferiva usare gli aeroplani per la caccia ai banditi. Un altro ancora propose molto seriamente di dar loro una forte somma per permettere che andassero a vivere all'estero. Dei commercianti fecero fortuna vendendo le loro marche d'auto, le loro armi perfezionate, le loro cassaforti inespugnabili. Un marito ingannato ne approfittò per denunciare il suo rivale in Carouì. 10 portinaie vendicative accusarono gli inquilini che non avevano dato loro mance sufficienti di aver concesso ospitalità ai banditi, crimine punibile con la reclusione, come ricordavano tutti i giornali. Insomma, concludeva col suo impareggiabile stile ben pensante l'Illustration, che forse per la prima volta dalla fondazione parlava di un fatto di cronaca. A queste imprese, senza precedenti, eseguite con deliberata efferatezza, bisogna reagire con misure eccezionali di preservazione sociale. La procura decise il giorno stesso di aprire un'inchiesta per un'associazione a delinquere in modo da rendere passibili di pene particolarmente severe i complici più o meno stretti dei banditi, molti dei quali sono già da qualche tempo sotto chiave, e in modo particolare tutti coloro che daranno loro ospitalità. Sembra infatti che questa sinistra associazione, che si rifà alle teorie anarchiche, comprenda numerosi affiliati. Effettivamente si concentrò in mano a Gilbert l'istruzione dei vari crimini e attentati effettuati a Parigi, in provincia e all'estero, e che fino ad allora era stata affidata alle procure locali. L'azione della giustizia, si sperava, sarebbe stata più coordinata. Si tirò fuori di nuovo la teoria secondo la quale i locali dell'anarchia, prima a Romainville, poi in Rue Fessard, sarebbero serviti da base sociale alla banda. Così Rirette, Maître Jean e Victor Kilbacique furono di nuovo promossi capobanda. Non importava che non si fossero trovati 2,50 franchi presso questi sedicenti re del crimine, non importava che Juin sapesse per certo che Victor era incapace di svaligiare e ancor di più di uccidere. Bisognava dare al pubblico una spiegazione plausibile e anodina di crimini la cui origine era altrove. Nella violenza che una società ipocrita, egoista, mellifluante, viziosa aveva fatto subire ai criminali nell'infanzia. Quanto agli altri accusati, non vi figuravano né Raymond, il vero animatore della banda, né Sully. Invece, accanto ai tenori in libertà Bonneau, Garnier, Carouille e Vallée e alle comparse in prigione Deboe, Detweiler, Rodriguez, Belloni, Medge, c'era sempre Dieudonné, presentato in mancanza di meglio come l'uccisore numero uno. Occorse niente di meno che il ricevimento offerto all'Eliseo dal presidente Fallier in onore del re dei Belgi Alberto I e la notizia del naufragio del Titanic per calmare, per così dire, gli animi. Ma la polizia tesseva con tenacia la sua tela, grazie alla sua rete di complici e di delatori. I banditi tragici non dovevano tardare ad accorgersene. La prima vittima fu Sully. Camel, sfortunato, il 26 marzo, il giorno dopo il colpo di Chantilly, prese a Saint-Lazare il treno per Berck-Plage. Con la sua parte di bottino, 8.000 franchi, pensava di finire i suoi giorni in una stazione per tubercolotici dal suo amico Barthélemy Barail, ex ferroviere licenziato dalla Compagnia del Nord per anarchismo. Non si sa se, come racconta Aragon, abbia incontrato Catherine Simonizet, la eroina delle campane di Basilea, sul sentiero dello Chalet Suzanne. Si sa invece che lo stesso giorno un amico di Sully era andato a trovare Juin. L'uomo con la carabina è lui, aveva detto, la spia. Ho appena letto il giornale, i connotati corrispondono, dovreste andare a fare un giro a Berck e non dimenticate il premio. Juin vi si recò personalmente, accompagnato dall'ispettore Sevestre de Colmar. Non fu molto difficile per i due uomini acciuffare la mezza cartuccia a un angolo di strada. Il povero ragazzo si dibatté finché poté, ma non era all'altezza. Si calmò appena gli misero le manette. Ridivenne il bandito tenero e spavaldo che commuoveva tanto Rirette. «Tu sei pronto per i lavori forzati?» gli disse socchignando Silvestre. «No, per la ghigliottina», rincarò Colmar ridendo. «Me ne frego», rispose. Per i pochi mesi che mi restano da vivere fa lo stesso, il patibolo o la tubercolosi. Avrò almeno la consolazione di conoscere De Blair. «Sei armato?» rispose Sevestre. «Se mi aveste lasciato 10 secondi lo sapreste, i proiettili erano per voi, il cianuro per me». La sera dell'arresto di Sully, scrisse Aragon, la marcia militare a Parigi fu condotta con clamore. Seguendo gli ultimi ordini, non era stato pubblicato l'itinerario. Essa passò verso le 9 davanti alla Camera del Lavoro. Si voleva una dimostrazione di forza. C'era una polizia civile notevole. Quando esplose la Marsigliese, qualcuno gridò qualcosa che non fu sentito dalle finestre del primo piano. Immediatamente il corteo manifestò contro la sede. Volarono pietre contro le finestre, furono branditi bastoni, agitati pugni. C'era pochissima gente laggiù. Due operai che erano sulla soglia furono letteralmente linciati, lapidati dai patrioti. La marcia lorenese sottolineò questa bella impresa al grido di «Viva Poincaré! Viva la Francia!». L'indomani la sorella di Sully si suicidò. Era innamorata. I genitori si opponevano al matrimonio. Impugnò un revolver ai piedi del letto del suo amico, il fratello che l'aveva tanto turbata col suo entusiasmo, raccontandole le sue speranze in un mondo nuovo. Era finito in un vicolo cieco. La vita era uno sporco scherzo. Sparò. La stampa parlò di una delusione d'amore, ancora una volta senza voler capire che i due Sully erano stati vittime dello stesso complotto, quello che condanna irrimediabilmente gli individui che rifiutano di obbedire alla gerarchia. Cinque giorni dopo, il 4 aprile, fu la volta di Carouille. Lui si era rifugiato da Gozzi, l'uomo dei saldi d'Ivry. Quando un amico andò ad avvisarlo che non era più al sicuro e gli propose di andare da lui, a Lozère, Carouille accettò. Non sapeva di essere già stato venduto. «Venduto come del bestiame», precisò dopo, ancora stupefatto di quell'ignominia. L'amico, un certo Grangot, gli aveva dato appuntamento per l'indomani alla Croix de Bernis. Carouille si mise in marcia la mattina molto presto. Passando per Fresnes, notò sul ciglio della strada due gendarmi in uniforme che discutevano con quattro operai coi berretti, poliziotti travestiti, con tutta evidenza. Per un momento credette di essere in trappola e si preparò alla battaglia. Continuò tuttavia ad avanzare, sorvegliando il gruppetto con la coda dell'occhio. Lo si lasciò passare. 100 metri oltre, un individuo che non aveva mai visto lo abbordò. «L'hai scampata bella», disse l'uomo. «Sì», sbuffò Karui, senza riflettere. Lo sconosciuto era un simpatizzante o un poliziotto che voleva essere sicuro della sua identità? Karui non era in grado di accertarsene. Grango lo attendeva nel luogo fissato. Lo condusse in un villino di periferia e gli chiese in cambio del servizio resogli di ridipingergli la casa. Karui acconsentì volentieri, infilò un camosciotto e posò su un tavolo le pistole di cui era munito. Non tanto del resto per affrontare la sûreté, quanto per difendersi da Garnier, che, sempre eccessivo, dato che da qualche tempo non lo vedeva, lo sospettava di aver denunciato su di e voleva fargli la pelle. Uno stupido malinteso, ma se si era frequentato Garnier, si sapeva che la riflessione non era il suo forte. Prima sparava, poi discuteva. Era quindi meglio essere pronti a tutte le eventualità. Alle 5 Grango ritornò e gli chiese di accompagnarlo alla stazione di Lozère, a 2 chilometri da Palaiseau, sulla linea di Chaux, per aiutarlo a trasportare il letto che aveva ordinato per il suo ospite. «Dovresti toglierti il camiciotto», aggiunse. «Potrebbe farti notare, e prendi con te le pistole. Uno come te dovrebbe essere sempre armato». Che cosa sperava l'amico? Che nel corso della battaglia Karui restasse ucciso sul colpo in modo da non poter mai dire il suo nome a nessuno? In ogni caso il suo piano fallì. Grango sarà steso a rivolverate tra pochi mesi. Come orazione funebre avrà un articolo di Gustave Hervé in Guerre Sociale, intitolato «La fine di una spia». Karui cominciò a sospettare che si preparava qualcosa di losco quando il suo amico lo infermò che avrebbe camminato 10 passi davanti a lui col pretesto di non essere compromesso in caso di bagarre. Era assurdo perché al ritorno avrebbero dovuto portare il letto insieme, ma Karui accettò. Da una parte il suo animo semplice non poteva immaginare che un amico fosse così vile da attirarlo in una trappola. Dall'altra, a forza di vivere braccato per tante settimane, aveva acquisito una specie di fatalismo. Lo spiegherà più tardi in termini tali da rendere difficile credere che avesse potuto essere l'abietto assassino del possidente di Thaïs. C'era un bel sole. Io, che avevo sempre voglia di morire, mi dicevo come sarebbe bello morire con un bel sole come questo. Non avevo che un pensiero, farmi dimenticare, che non si parlasse più di me e che potessi rifarmi una esistenza. Altrimenti tanto peggio, la morte sarebbe stata la liberazione. Tutta la miseria della mia vita si sarebbe cancellata in un colpo, dato che non sarei stato più là a vederla. E mi si descriveva sempre come un capo della banda. Si diceva la banda di Karui. Se fossi stato un capobanda avrei avuto denaro con me. Avevo solo 100 franchi quando mi hanno arrestato. Tutto questo non è giusto. Quando siamo arrivati davanti alla stazione, ho visto prima un'auto che stazionava nel villaggio, poi quello che mi aveva alloggiato si è precipitato e ha attraversato la stazione. Allora mi sono fermato sulla porta. Ho visto su un banco 4 uomini seduti. Erano vestiti come gli operai, col berretto che avevo visto a Fresna. Accanto alla porta c'era un uomo con un solino. Avrei potuto tornare indietro, avrei potuto usare le mie pistole. Non l'ho fatto perché rispetto la vita umana. Sono entrato nella stazione, quando si sono avventati su di me, ho detto loro, non colpitemi, sono armato. Un uomo che parla così non è un uomo che vuole uccidere, ho pensato. Non mi perquisiranno, troppo minuziosamente. Ho del veleno con me. Alla prima occasione lo inghiottirò e con ciò tutto sarà a posto. Karui, senza essere un genio, aveva del buon senso. In 3 occasioni, il mattino a Fresna, la sera, quando il suo amico aveva deciso di camminare davanti, poi, vedendo il quartetto sospetto che lo aspettava, non poteva non essersi accorto di essere seguito. Inoltre aveva, come noto, una forza erculea. Quando il vice brigadiere Rohr, si accostò e gli sferrò un violento pugno alla nuca, non fece un gesto per difendersi. Arrivando alla Sûreté, con un gesto rapido prese il contenuto di un tubetto nascosto nella cintura dei pantaloni e lo inghiottì. I poliziotti persero la testa. Caruì sogghignò con aria trionfante. Passò un minuto, poi due, poi tre. Non accadde nulla. «Ah, che merda!» il farmacista esclamò quando capì che era stato imbrogliato sulla merce. «Mi ha dato della porcheria invece dei confetti che gli avevo chiesto». Se la cavò con qualche colica, fu interrogato e poi portato alla Santé. Lì si impadronì di un paio di forbici e tentò di tagliarsi un'arteria, ma ancora senza successo. Nel frattempo Raymond, sempre nascosto dal suo amico Pierre Jourdan, detto Clément o Rostinet, nel sordido alloggio al 48 Rue de la Tour d'Auvergne, sognava a più non posso. Aveva sempre avuto l'ambizione di vivere tranquillamente in una mansarda piena di libri con una donna che lo amasse. Nato possidente, avrebbe forse vissuto la vita dopo tutto tranquilla di uno scrittore sovversivo, del tipo di quel Baudelaire che un tempo criticava. Lui aveva dovuto battersi, rubare, uccidere per acquisire la cultura che altri avevano sin dalla nascita. La differenza tra lui e gli eroi dei romanzi francesi da 100 anni, eccetto solo quelli di Balzac, era tutta qui. Si è in grado di avere sentimenti raffinati, angosce squisite, amori profondi, se non si spende ogni energia per sopravvivere. Ora che era quasi ricco e che aveva l'amante, la casa e i libri gli sembravano facili da raggiungere. Bastava attendere il tempo necessario per far dimenticare i recenti avvenimenti. Nessun giornale aveva ancora parlato di lui. La polizia, ne era sicuro, ignorava la sua identità e indubbiamente l'avrebbe ignorata ancora per molto, senza un tradimento che non prevedeva. Una sera, esasperato dal passare le serate chiuso in uno stambugio, volle ad ogni costo andare a cena in un ristorante. «Come vuoi che i poliziotti mi riconoscano, dato che non mi conoscono?» disse a Jourdan, rientrato dalla provincia per la piccola Ortu. A tu per tu con Louise mangiò con grande appetito, non lontano dal Grand Boulevard. Louise non toccava cibo. Sembrava preoccupata, quasi tremava. «Non preoccuparti», le disse, «il peggio è passato, non ne abbiamo ancora per molto, e poi arriva la primavera. Andremo a stare in campagna. Metterò a posto tutto da domani». «Sì, certo», disse lei distrattamente. Nel suo nervosismo rovesciò la teiera e i più bei discorsi di Raymond sull'organizzazione della società futura, paragonabile a quella delle cellule del corpo umano, ognuna indipendente ma collegata alle altre e tutte concorrenti allo stesso fine, la lasciarono indifferente. Sulla via del ritorno, uscendo da un Vespasiano in cui si era fermato pochi secondi, gli sembrò di vedere Louise scambiarsi segni con un borghese alto di statura. Raymond si arrestò, pronto a tutto, guardando l'uomo con diffidenza, ma l'individuo proseguì per la sua strada senza mostrar di notarlo. «Conosci quel tizio?» chiese Raymond. «Quale tizio?» chiese Louise ingenuamente. Raymond fece qualche passo in silenzio, poi si voltò. Il cappello del passante si perdeva lontano nella folla. Nessun viso sospetto sembrava seguirli. «Mi sono messo in testa delle fantasie», brontolò. Prima di rientrare in Rue de la Tour d'Auvergne, Raymond si voltò più volte, senza notare nessuno. Poi si sdraiò con Louise sul materasso che Jourdan aveva preparato per loro, a piè del letto, dicendosi che quell'accampamento di fortuna installato dopo che il suo amico era tornato a casa non era in vero molto pratico. Questo che spiegava la freddezza aggressiva della sua amica nei confronti di tutto. Una giovane raffinata come lei sopportava a fatica certe condizioni di vita. Il lavabo per quattro sul pianerottolo non era adatto ai suoi eccessi di igiene. La scomodità uccide l'amore. L'indomani la buona Otto fu spedita al Bon Marché con l'incarico di procurarsi una valigia, biancheria e un necessaire da viaggio. Se la cavò molto bene. La valigia era gialla, la biancheria elegante e il necessaire lussuoso. Jourdan rientrò con una magnifica bicicletta. Il progetto di Raymond era di recarsi da solo alle Havre. Louise lo avrebbe raggiunto in treno con i bagagli. Lì avrebbero studiato il modo migliore di lasciare la Francia. 2 giorni dopo, Jourdan andò a portare la valigia al deposito della stazione Saint-Lazare e Raymond, prima di andare a dormire, si affacciò nel cortile a revisionare, sgrassare, regolare un'ultima volta la sua bici. Nella notte furtivamente si strinse a Louise. Era di ghiaccio, non osava né muoversi né parlarle, a causa del rumore. Strinse forte e a lungo la sua mano, sperando di comunicarle con questo semplice contatto tutto l'amore che aveva per lei. Il giorno dopo, domenica 7 aprile, scese in cortile alle 7 del mattino, con un elegante abbigliamento da ciclista in tweed coperto da un berretto, in compagnia del fedele Jourdan. Afferrò il manubrio della bici, aveva appena raggiunto l'atrio che un'orda di poliziotti guidati da Xavier Guichard in persona, che erano nascosti nello sgabuzzino sotto la scala, si avventò su di lui. Non hai il tempo di prendere una delle 3 Browning che deformano le sue tasche. L'ispettore Sevestre lo stende con un magistrale uppercut alla mascella. Jourdan è già accuratamente legato. La portinaia si mette a urlare istericamente: aiuto, aiuto! È il capo della banda Bonneau! La folla si addensa in un istante. Diverse centinaia di persone si ammassano davanti al portone, ansanti, ruggenti, assetate di vendetta. A morte, si gridava da ogni parte. Xavier Guichard apre a stento un passaggio tra l'orda scatenata. A quell'adolescente che dicono che è un criminale così pericoloso. I suoi uomini devono tenere fermi i più eccitati per impedire che lincino Raymond. Allora, siete orgoglioso? Avete arrestato un bandito? Sogghigna lui nella macchina che lo porta al Quai d'Orfèvres. Peccato che mi abbiate sorpreso. Avremmo potuto spiegarci alla pari. I poliziotti restano in silenzio. Hanno trovato in tasca a Raymond 9 caricatori più 17 cartucce mescolate alla rinfusa. Il piccolo bandito aveva effettivamente con sé l'occorrente per spiegarsi. Fate un buon affare, dice più tardi arrivando alla Sûreté. La mia testa vale 100.000 franchi, ognuna delle vostre 7,5 centesimi. È il prezzo esatto di una palla di Browning. Del resto, faccia a faccia, il gioco non sarebbe stato alla pari. Voi non avete mai sparato, come me, centinaia di colpi. Per ora ci si accanisce invano a farlo parlare. Si chiuse in un altero silenzio. Una sola volta manifestò qualche interesse per ciò che accadeva intorno a lui. Fu vedendo entrare un uomo alto dai lineamenti fini in cui gli parve di ravvisare il passante dei Grand Boulevards. Chi è? Chiese all'ispettore che gli era più vicino. Juin, il vice capo della Sûreté, ragazzo mio. Raymond impallidì, inghiottì con difficoltà la saliva, trovò tuttavia abbastanza forza in sé per fare buona figura nell'avversità. Mi avete arrestato e sia, sogghignò in direzione di Juin, ma dopo di me ce ne saranno altri che continueranno. Il vice capo lo guardò con aria pensosa. Conoscendo la mentalità degli anarchici, sapeva che Raymond non scherzava dicendo quelle parole, ma non poté tirar fuori niente da quel bandito sarcastico, sprezzante, nauseato dall'essere stato tradito da una donna, in uno dei pochi casi della sua vita in cui non aveva dato prova di misoginia. Del resto, nessun documento prova, ben inteso, la doppiezza di Louise. Si sa solo che non fu mai disturbata successivamente. Effettuate queste 3 belle imprese, riprese, ingrandite, deformate dalla stampa, la Sûreté si trovò all'improvviso a corto di spie e dunque di notizie. 4 tra i gangster più pericolosi, Bonneau, Garnier, Monnier, Vallée, erano sempre fuori. Quando nella notte tra il 13 e il 14 aprile una misteriosa vettura guidata a 80 all'ora, senza curarsi dei divieti stradali, dei pedoni, dei passaggi pedonali, seminò il terrore dai Grands Boulevards alla Concorde, passando per Piazza Vendôme. Quando essa riapparve nel 18° e puntò deliberatamente su un gruppo di scioperanti che uscivano da una riunione svoltasi alla Maison Commune di Rue Cavée, Rue Doudeville e il Boulevard de la Chapelle, il panico si impadronì di nuovo degli animi. I banditi, una volta speso il bottino di Chantilly, stavano senza dubbio per riprendere le loro imprese. La Francia, dopo aver compiuto, grazie agli Houthi, la pacificazione del Marocco, si accingeva a imporgli il suo protettorato col trattato di Fès, a colpi di cavalleria, di massacri, di spaventevoli torture. La guerra italo-turca era all'apice in Tripolitania. Tra le 10 e le 13, il 17 aprile, ebbe luogo un'eclisse di sole. Il norvegese Amundsen aveva conquistato il polo sud, mentre la squadra inglese del capitano Scott si dibatteva ancora in atroci tormenti. Nelle strade di Pechino, Nanchino, Shanghai venivano rovesciate ogni mattina carrettate di uomini decapitati, impalati, fatti a pezzi, squartati e virati. Tra i partigiani di Sun Yat-sen, che tra gli elementi anarchici che non hanno affatto creduto che la fine della monarchia volesse dire fine della rivoluzione. Lo sciopero, col suo seguito di repressioni poliziesche, era al massimo nelle miniere di carbone inglesi e tedesche. Il conflitto dei Balcani covava sordamente. La Francia e la Germania, con grande spiegamento di parate, sfilate, manovre, note diplomatiche, canti eroici, provocazioni, intimidazioni. Niente di tutto ciò faceva dimenticare al pubblico lo spettro di un Bonnot enorme, sanguinario, minaccioso. Furono dei casi di pazzia. Un imprenditore dei Ponts et Chaussées non dormiva più dagli ultimi attentati. L'insonnia aveva finito col logorare il suo sistema nervoso. Si credeva Bonnot, si dovette rinchiuderlo in un manicomio. Dopo la lettura di un articolo particolarmente sconvolgente sui banditi tragici, una portinaia, andando a comprare il latte, credette di riconoscere Garnier. Urlò tanto e così efficacemente che aizzò la folla. Aveva già iniziato il linciaggio del sospettato quando qualcuno si accorse che il poveretto sventolava una carta di commissario di polizia. In Belgio un capostazione fece di meglio. Vuotò tutto il caricatore di un revolver su una folla tranquilla in cui gli era parso di riconoscere alcuni membri della banda Bonnot. Gli anarchici non illegalisti erano immersi nella disperazione. Un vecchio militante chiamato Britannicus, che riteneva il movimento disonorato dai delitti del gangster lionese, riassunse in un gesto l'impressione generale. Si suicidò. Libri ribelli. Libri ribelli.